L'Inter non può perdere quest'anno il campionato, no, non è possibile. Conte già lo sappiamo, è Macco, però è competente, ma l'ha detto già, la squadra la sa dirigere bene, altro che. Vabbè, comunque. Se tu pensi, caspita, che sono praticamente persone che sono state alla Juve, sia Marotta che Conte, praticamente c'è stato un proseguo di vittorie per questi due dirigenti, sia lui allenatore che Marotta direttore generale, per cui va bene così. Quello è l'errore che ha fatto anche la Juve, per conto mio, l'ho sempre detto, la Juve a Marotta l'ha mandato, boh, basta. E allora incomincio a finire il ciclo, perché quel Paratici per me non ne capisce proprio un bel niente. E Marotta era il numero uno in quanto a formazione di squadra, eccetera. Vabbè, la Guppa d'Agnelli si è mandato sia a Marotta che a Conte, peggio per lui. Tanto la quarta era sua, non è la mia. Però dispiace ai tifosi, no? Avanti Luca. Infatti, speriamo, dai, speriamo bene. Ieri, vabbè, io non l'ho vista la partita, però dice che ha dominato forte l'Atalanta, ha giocato forte veramente, però vabbè, quello che conta è la vittoria, ecco, chi fa gol ha vinto, poi se quello ha avuto il possesso di palla più alto di percentualità, va bene così, dai, comunque no. Ce l'ha fatta, dai, poi vediamo, ancora non è finito il campionato, poi è un attimo, magari vi rompe avanti e si va a dire che è una squadra proprio di molli. Sì, ieri io già l'ho vista, quella partita, una bellissima partita è stata, ma devo dire che era a tratti, a momenti era superiore nel gioco sia l'Atalanta e a momenti era l'Inter, solo che l'Inter ha saputo sfruttare meglio il contropiede, poi con il calcio d'angolo che gli è stato creato dall'Atalanta stesso, proprio lì nella mischia è arrivato Skriniar, è arrivato un terzino che non segna mai, perché un terzino ha avuto la fortuna di indovinare l'angolo e ha vinto. Non è così, cioè, è vero, ha giocato benissimo l'Atalanta, è una gran bella squadra, ma proprio per quel motivo lì che ti dico, ha superato il problema Atalanta e allora a quel punto è in discesa. Per me, per l'Inter il campionato è in discesa. Dici che secondo te ce la fa? Sì, te lo sto dicendo, solo l'Inter lo può perdere. Quest'anno il campionato lo può perdere solo l'Inter, perché ripeto, come ti ho detto poc'anzi, è una squadra che non deve partecipare a partite di Coppa, per cui gioca ogni 7 giorni, di conseguenza i giocatori sono tutti riposati, a differenza delle altre squadre che giocano ogni 3 giorni. E poi c'è anche da dire questo, ogni 7 giorni, se per caso hai un piccolo infortunio, te lo recuperi e dunque il giocatore è sempre presente per la prossima partita. Se invece ti infortuni giocando ogni 3 giorni, alla prossima partita quel giocatore non ci può essere, anche se hai una minimissima cosa, non ci può essere assolutamente, perché non recupera. Per cui solo l'Inter, ripeto, lo può perdere col campionato. Speriamo bene, stasera c'è la Juventus con il Porto, chissà, se perde è fuori, così è. Sì, se perde e deve stare attenta, perché se subisce un gol è ancora peggio, è guai. Se dovesse vincere la Juve 1-0, basta 1-0, basta, e allora passa la Juve, perché ha il vantaggio che aveva segnato un gol fuori casa. Però deve stare attenta, ma io ho paura, perché la Juve non ha centrocampo, non se ne sa fare. Io ho sempre detto, quest'anno la Juve parte sempre dallo 0-1, perché le altre squadre tutte riescono a fargli gol, magari rimonta anche dopo, no? Durante la partita, come è successo anche ultimamente con la Lazio, stava perdendo, i primi 20 minuti ha fatto pena, proprio pena, pensa che stavo per spegnere la televisione, non ne volevo più vedere. Poi invece è successo che c'è stato quel rigore che tra l'altro non gliel'hanno dato ed era evidentissimo, ha detto beh, vediamo un po' cosa, sembra che si stia svegliando. Poi alla fine ha pareggiato Rabiot e poi praticamente ha vinto la grande, perché da quel momento ha incominciato a giocare da Juve, però a questi rallentamenti la Juve certe volte non riesco come mai, non riesco a capire come mai funzioni quest'anno a corrente alternata, dai. Migliore, molte volte è capitato che magari per un pallone che, ripeto, a noi non c'entra niente in tasca, nulla, manco un centesimo, e si bisticcia, se va bene, due volte manco ne guardo, non mi interessa, sì, mi piace, però molte volte manco ne guardo e poi mi incazzo, ecco. La sera magari vado una sbirciatina lì al canale 5, me la guardo, là, vediamo un po'. Ma il Porto è forte, molto forte. È un'ottima squadra, è altro che è un'ottima squadra il Porto, e appunto quello che ti sto dicendo, deve stare attento a non subire. Se la Juventus non subisce gol come solitamente, tu mi dirai, ma è la difesa che ha subito meno gol in campionato. Sì, è vero, però essendo la Juventus i gol che ha subito sono troppi, perché la Juventus quei gol li subiva in due campionati, non in uno, in due campionati le subiva, e dunque invece quest'anno sembra fatta apposta, tutte le volte anche le squadre di bassissima classifica riescono a fargli gol, cosa vuoi dire, magari poi riesce a rimontare e anche a vincere, però non è così che deve essere, ha fatto troppi pareggi, anche 7 pareggi, non è possibile, dai. Lasciamo poi adesso le sconfitte, ne ha avuto 3, però le 3 partite si possono anche perdere un intero campionato, ma se cominci tu a perdere 3 partite, poi ne pareggi 7, non va più bene, non va più bene così assolutamente. Speriamo bene che oggi riesca a rimontare i 2-1 che hanno fatto lì in Portogallo, speriamo bene, cosa vuoi che dica? Speriamo, se vogliamo vedere anche se Ronaldo è in grande forma e se Morata soprattutto che sia in grande forma, perché la Juve quest'anno ha giocato la maggior parte del campionato senza centravanti. No, non è possibile così. Comunque, vedremo un po' stanotte, dai, avanti Luca. E quando dopo guardiamo, vediamo un po' cosa ne esce, sono in forma, tanto, a noi non sentiamo del musciacara. Altro non posso dirti. Mamma mia, sto cavolo di mal di schiena, mi sei dopo ripresentato, dovrei rifare un salto lì dal medico. Sono queste giornate brutte, per carità, va. Mi passa pure la gana. Basta piovere, basta, penso che i bacini sono pieni per tutta l'estate, penso, prima che c'era proprio un fiato, Ma purtroppo così, anch'io ieri ero già una settimana con un dolore al braccio, tu presente ce l'hai, hai incominciato in questo modo, tipo quando uno si mette sotto il sole, no? La pelle incomincia ad essere bruciacchiata, no? E tu ti tocchi sulla parte dove il sole ha colpito, senti quella specie di effetto molto molto fastidioso, no? E ce l'avevo lungo tutto un braccio, poi dopo quello è cominciato a diminuire quell'effetto lì e mi si è attaccato questo dolore al braccio che non potevo nemmeno muoverlo praticamente. Adesso sembra che mi stia passando, ancora oggi ce l'ho un pochino questo dolore nel muscolo, non nel muscolo davanti, nel muscolo dietro, ce l'ho, e ancora un pochino lo sento, però diciamo che ormai è in fase di allontanamento, sarà ancora per stanotte, domani vedremo un po' cosa succede. Poi vabbè, giovedì ho di nuovo la ripresa della terapia che sto facendo, diciamo regolarmente di tanto in tanto, che devo fare fin quando non finisce tutto il ciclo, e poi saremo a vedere. andare avanti tu. Però piano, io, ma che ha pigiato? Ho pigiato, buonasera a tutti. Ciao Bobolì. Avanti, io Giulio e gli altri sono andati a cenare. Quanti mi vado a buttarci questa cosa qua? Mi stavo mangiando una mela prima, Poi questa notte sono alla porta, che è una domanda. Pure io qui, sono appena arrivato, adesso scendo giù a cenare. Vabbè, dai, io scendo adesso che mi hanno proprio chiamato in questo momento. Vabbè, dai, ciao Antonio, ciao Luca, anch'io vado a cenare, puntuale, alle 8 proprio questa volta, puntuale preciso la chiamata. Ciao, ascolto il vostro finalino, poi chiudo. Vai Anto. Capo, ciao Antonio, Giulio, ce la risentiamo alle prossimine. Luca, veramente a Sarrato. Ok, dai, giù, io scendo giù a cenare perché sono appena arrivato a casa, giù buccio bene va. Ok, ciao. Ecco qua, buttato, e oggi ho fatto un po' di radio, di solito non aggiugare, va bene, quando la cosa va bene, che vi piace, va bene, rimango, altrimenti no. No, va sempre bene, bisogna avere fede e andare tutti d'accordo. Io ci scendo giù là e vado a mangiare. E io ho già cenato, la pizza mi sono mangiato, la capricciosa, da piatto, una mela e un arancio. Boh, questa notte sono non a posto di più, a dopo andò, allora dai. Giulio, chiuso là. Sì, ha chiuso. Dai, scendo giù e vado a mangiare. E a dopo, ciao. Hola. Sarà, vai normale, no? Vabbè. Tutto a posto, niente in ordine. Chiappa. È che non va bene questa modulazione. No, va benissimo, no, ero forse un attimino distratto, sembrava un'altra persona. No, già sono io, già. Conosci io. Il microfono però cos'è? 60 o che cosa? Quello. No, stanno alla bomba. Ma ti ho ascoltato ieri notte, 10 minuti stavo guardando un pezzo di partita, c'avevo quella radiolina piccola, arrivi con quella radiolina a bomba. Più forte di Luca arrivi tu. Lo so. È normale, la mia antenna non ha niente che invidiare con altre antenne, funziona bene. Ah no, sta uscendo la grande, una bomba. Hai avuto un salto, infatti tanto vale prendere una cosa seria, andare in giro con questi giocattolini, ci spendi un sacco di soldi, prendi una cosa definitiva e boh, non tocchi nulla, una volta che è regolato non stai a toccare niente, c'hai meno problemi di altre cose, di disturbi perché sono apparecchi molto più avanzati e sofisticati, per cui anche il vicinato non rompi le scatole a parità di potenza di altri apparecchi con amplificatori e cose strane. Lo so già, amplificatore è Marwa. No, lasciamo stare, dov'è? Ha avuto un miglioramento soprattutto di modulazione, impressionante, il segnale, non ne parliamo, è tutto diverso. Ti ripeto, con una radiolina piccolina che ha un'antenna di 10-15 cm, in camera mia che si è un po' chiuso, dai, eppure arrivavi benissimo, forte. Capa, ma guarda, cioè, lo so che arrivo bene, anche perché ho tutto sotto controllo qua, stazionario, tutto controllo, e quindi no, lo so che l'impianto va bene. Mi ha giubiazzato tutto io, roba e me. Eia, ma hai sollevato anche l'antenna? Ma così è. Appunto, lo vedi? È infatti una soluzione che ti ha risolto un sacco di problemi. Hai bisogno di fare regolenti, prendi, vai ed esci a bomba. Cata. Anche l'86 7 non va male, le buccia di Giogami con un MB4. Sì, ma stiamo parlando una Ferrari con una C500, sono due cose completamente diverse, nessuno dice niente di male, però con Ghizzo vai a una radio. E al Zoguia. Hai fatto il salto come l'ho fatto io tanti tanti anni fa, è inutile che girare tanto, vabbè, non ne parliamo qua di troppi particolari, hai fatto un salto che ti permette di andare molto bene sia in ricezione che in trasmissione soprattutto, e non hai problemi di altre cose, di disturbi, soprattutto tra parecchio bello che ha allineato. Capa, è un coso quanti dirgli, vabbè, già andava bene, cioè, ma poi la ricezione, diciamo che ce l'ho abbastanza buona, no? Non mi posso la è che devo salire un po' più di lontana, ma non vado manco si ammazza, non tra gabbicuria. Devo tirare un po' su, più sull'antenna, avrò un pochettino più di ricezione. Però non mi posso lamentare, perché ci sono tanti altri come me, che sono peggio di me, alla fine non mi posso lamentare, mi devo gagliare molto. Assolutamente, considerando che non sei in una zona ideale, per dire, non sei in alto alla città, in un punto strategico, stai andando alla grande, infatti è quello che è bello, sei in basso della città, però arrivi bene tutta la città, almeno dalla parte mia sei quasi 9 più 30, fatelo conto. Già va bene. Avevo cambiato anche il cavo, me. Una volta che fai lavoro metti tutta la roba bene. Io come ti sto arrivando? Che segnale mi dai? Come 40, sì, quasi. Addirittura? Quasi 9.40, sì. Già, va bene, allora per la truppa, come dice Claudio. Sì, 9.30 passato, là. 9.40 non è che mi arrivi, però. A voi la cena per il pugile. E cosa, Claudio, ho sentito la bella? Sì, che l'avevo inteso. Ma sei già trasferito? Non è venuto, sono già un po' di giorni che non lo vedo. Quanto sembra, piano piano, sta regando tutta la roba. A quanto ho capito. E io? Dovrei andare a cambiare casa perché devo liberare che ci sono gli inquilini nuovi prossimamente, a breve. Sì, sì, già so tutto. Come devi dire, l'ha provato la campagna, non arrivi forti, Sicuramente dove lui lo stesso va bene, la città la domina tutta completamente perché è sopra la città, a Vuglia che arrivi. Capa, è quasi lo stesso segnale tuo, mi roba. Cazzo, arrivi un bel forte in Oghi. Certo, ce l'hai di fronte, cazzo. Arrivata quando la sistema più bene l'antenna, vedi, che ci scintille. Ma a te chi sono i più forti, senza considerare quelli che ci hai attaccati, tipo Gianello Profeta e Natalino, chi sono quelli che ti arrivano più forti? Parliamo zona del monte, zona dove abito io, Marco, Pompugno. Allora, qua mi arrivava forte Claudio. Tu? Il più forte di tutti è coso, ma occhi di gatto, cioè Fabrizio, e Daniele, sono i più forti di tutti. Addirittura Daniele ti arriva forte. Un bel forte. No, perché Daniele arriva a me sui 9.30 più o meno, anche qualcosina di più certe volte. Però pensavo che a te arrivasse meno più basso. No, no, è al contrario. Io in quella zona arrivo fortissimo a me. Cioè la posizione praticamente. Come è posizionato? Io in Vialitalia arrivo un bel forte, arrivo 9.30, 9.40 bomba. L'altro giorno c'era Antonio Grodde che c'aveva l'antenna dentro casa, li entravo dentro casa a bomba. Ma questi hanno dei picchi di modulazione, questi apparati impressionanti, cioè anche con pochi watt sparano che è una bomba, sono eccezionali. Poi su questo tipo di radio, come modulazione, come qualità di modulazione non ce n'è per nessuno. Cazzo, come segnale forte. Poi c'è dalla parte del monte, c'è Luca che mi arriva fortissimo. Gianni mi arriva un po' di meno di Luca in questa posizione. Vabbè, tranne Natalino, Brocca, che sono a fondo scala. Infatti se parliamo di un canale diverso sono dolori. Allora, le prove si fanno a parità di potenza, è utile uno usata incubata, l'altro è data 20-30. Si fa a parità di potenza le prove. Se tutti usiamo i baracchini, adesso per esempio, no? Roberto usa quello grande, se Roberto usa il baracchino non arriva forte qua. Vabbè, Olu, però stiamo facendo la comparizione, cioè per zona e zona, non stiamo parlando di coso. Allora, usando anche una radio più modesta e coso, tu sei fortissimo qua, al monte. Quando sei andato dolce sei abbastanza forte, arrivi 9.25. Però io sto parlando di comparizione, cioè di zona con gli stessi watt, tutte cose, cioè diciamo anche se non è molto forte di watt, io nella zona di Via d'Italia sono fortissimo, arrivo un bel forte, non so perché ma c'ho quella zona molto favorevole. Break. Registrato break, si fa, inutile, si fa a parità di potenza, che se poi mi pongo la radio usi, arrivo con lui più forte, è normale, no? Se tu usi 30 watt, 20, 30 watt, li uso pure io, arrivo pure io. Se tu ne usi 30, ne uso 5, sarà 5 watt. 5 watt, 5 e mezzo, non di più, avanti break. Ehia, Paolo Alessante, buonasera a tutti. Stavo per dire la stessa cosa, non si fanno le comparazioni così, le comparazioni si fanno prima di tutto, uno in una zona, uno nell'altra, è una cosa diversa, capito? Sia l'altezza, sia tutto quanto bisogna controllare. Vabbè, comunque tutti arriviamo bene, l'interessante è quello, se ci sentiamo tutti bene, per noi è una zona di Sassari, c'è solo Lupo Grigio che arriva un po' basso, ma qui tutti gli altri si sentono bene. No, già, io stavo dicendo la stessa cosa, stavo facendo la comparazione dove il segnale arriva più forte, da uno all'altro, poi se parliamo di potenza è un'altra cosa, è un altro bagno di maniche. Io stavo parlando di una cosa dove uno può arrivare più forte dell'altro, in direzione, i più forti di tutti qua sono i due miei vicini, vabbè, lascia perdere, sono vicini, però in direzione qua Fabrizio arriva una fucilata, mi arriva a me, ma proprio forte, forte, forte qua. Io sto facendo la comparazione dove il segnale può sbattere forte, anche i watt più bassi siamo quasi la stessa quantità, cioè, è sempre quello là che prevale. La distanza, vabbè, però la posizione io sto parlando, anche se noi la mettiamo a 4 watt c'è sempre quello che prevale, sempre di più. Il segnale è dovuto in base alla potenza che usi, per cui il discorso è quello. Va bene, io saluto tutti, avanti Roberto. Aspetta, chi è che ha detto lo basso? Marco. Ah, Marco, sì, Marco, passi, anche Marco è forte qua, Marco passa a te, a tu, passa a Gianni e a Roberto, Bombolino vi crepa a tutti, tranne Roberto. Marco per me è favoritissimo, proprio, vabbè, perché è una posizione diversa. Non è che Marco è trattando chissà cosa, no? Si guarda in distanza. Vabbè, Gianni con Marco, Gianni di Damattana, Stava parlando Marco assieme, Gianni di Damattana, Gianni arriva forte lo stesso, E Gianni arriva, è uno dei più forti a casa di Marina, è uno dei più forti. Pure quando era notte notte mi arrivi a fondo scala. Ma da parte 2 però qua passa Marco, schiaccia tutti. Bombolo, ho visionato un chilometro su 100 metri. Arrivi fortissimo. Quando è normale che arrivi più forte. È normale, cioè io ho scusate in 5 watt. Se un domani la dovessi mettere anche io, una radio così, oppure mi metto un 747, cambia la musica. Luca, se vuoi ti accontento subito, facciamo le prove. Luca, ehi, dimmi. Allora, la potenza naturalmente conta, ma conta anche la posizione e soprattutto l'antenna. Se ci sono un'antenna in una posizione strategica e tu c'hai un'antenna in una rampata in terra, a parità di potenza è l'antenna quella che ti fa irradiare. Se c'è un'ottima posizione è quella, e poi soprattutto te ne accorgi in ricezione, non tanto in trasmissione, perché posso mettere anche un kilowatt e mi ascoltano, e poi non ascolta nessuno io. Stiamo parlando di ricezione, uno deve anche ricevere, non è che devi solo farti sentire, devi anche ricevere. Ho capito, ma cioè, la radio a radio cambia, c'è la differenza. È come se tu ti metti a correre con me, io con una 600, una Fiesta, cazzo, e tu con una macchina, cosa ne so, io con un 1200, tu con un 1400, un 1600, cammini più tu di me. No, di quello non c'è ombra di dubbio, a parità di posizione e di potenza, chi ne ha di più di potenza va più lontano. Però io sto parlando, se tu c'hai 5 watt e c'hai una posizione a Monte Bianchino in alto, schiacci gente che c'ha 100 watt, quindi tu ne passi sopra, perché c'è una posizione in alto dove c'è quella torre di Monte Bianchino, che di lì domini tutto, è il punto più alto di Sassari, non viene mai nessuno se ti piace un'antenna di lì. Quello che sto dicendo. Poi naturalmente se io esco con 10 e tu ne esci con 3, la differenza si nota nella stessa posizione. Però molte volte io facciamo delle prove e ci mettiamo a farci ascoltare da lontano, a vedere chi ascolta in certe posizioni, magari voi non ascoltate, io ascolto e mi faccio anche sentire. Certo, la posizione conta molto, ci mancherebbe, però dico, ti ho fatto l'esempio, se tu attacchi il baracchino arrivi molto molto ma molto più basso. No, naturalmente questo c'ha dei picchi di modulazione molto superiori a una classica radio di quelle normali, niente da dire, non sto dicendo quello, ci mancherebbe. Però è presente che nessuno di voi sta uscendo con i watt normali, quello è, non vi ombra di dubbio. Io, la scommessa, io sto uscendo con 5 watt, questo baracchino l'unica cosa che è stato aperto è, vabbè, è stato cambiato i canali. Manco lo switch è stato regolato, io sto uscendo con 5 watt e se vuoi ti posso pure una volta attacco il rosmetro e ti mando la foto. 5 watt e 2 così, ma con 5 watt e mezzo. Guarda, adesso sono con 4 watt, com'è? A me sei 9 più 20. Com'è? Luca, quanto ti arriva a te? No, Luca è sempre stato uno dei più forti qua, quasi 9.30. Ma quanto arrivo io? Adesso sono con 4 watt normali. Eppure non è che... Lui, vabbè, c'ha la posizione più aperta a te, io... Cioè, siamo aperto sì, ma non quanto Luca. Dipende se i varchi dipende sempre, dai, siamo quasi a pari... Anzi, c'ho un watt in meno, cioè, sono a parità di potenza tua. Io, un watt è poco la differenza, ma a parlare di 5 watt, a 20-30 watt, c'è la differenza. Capito? C'è la differenza, è molta differenza. Vabbè, dai, no, non è che mi interessa, non devo fare gare con nessuno. Se voglio me lo compro un amplificatore, ma non me ne forzo nuda, non mi interessa stare lì a combattere, attaccare, fare, non me la fotti nuda. Chi mi vuole sentire mi sente e se ho pazienza. Interessante avere un'ottima radio che sia bella, squillante, che si capisca bene, poi del resto non mi interessa. Avanti già. Appunto, io sono con 8 watt, lo dico, manco 9, sono 8, l'ho abbassata un po', niente, ma posso uscire con più watt anche io, non è che, non farò mai frega nulla. Avanti Claudio, buonasera. Chi è Claudio? Ma me fai già, buonasera a tutti, 5 watt. Ciao Tony. Ciao, ciao Roberto, io sono 5 watt veramente. Lo vedrai dallo switch, dai. Sì, ciao Tony, e dove hai sentito a Claudio? Cosa? Ah, ho sbagliato io. È Tonino, infatti, non è Claudio. Io ho sbagliato io, mi sembrava... E tu sono proprio il macchino normale. Più liscio di questo non ce n'è. Tu sei un po' più di 9.10, Tony. No, ma usciamo tutti bene, più o meno, non ce ne sono qua in città, non ce n'è nessuno, a parte quelli che sono senza antenna, tipo Nicola, ma quello non può far tetto perché c'è con un portatile, ma quelli che abbiamo l'antenna, tutti siamo oltre 9.10. E tu hai visto dove sono io, Roberto? Io sono fuori casa. A Puglia sta andando benissimo, poi ci sono quelli mari più favorevoli qua, per dire, a parte Claudio e Pompugno che erano i più forti che sono attaccati, e Fabrizio lo stesso, quello che arriva più forte è Coso, erano Bracco, Giovanni Bracco e come si chiama? E Marco, poi c'è Luca, è quasi attaccato a Luca, c'è adesso, come si chiama, Antonio, poi c'è Gianni Doppio Rumo, Gianni Lobroffetta, sono tutti più o meno in quello livello di segnali. Oh, Robert, che fine ha fatto Bracco che non l'ho più sentito? È impegnato in campagna, lui è venuto tempo fa in officina, qualche settimana fa, ogni tanto basta, gli hanno smotturato la macchina, c'ha dei problemini, dai. Però già capita ogni tanto. Andava qui per il Tony. Cappa, siamo un po' soltanto. Ciao, Corix della macchina. Il più piccolino sono io, voi siete fissati, io non ne ho potenza, non ne uso potenza, ma c'è un apparato un po' più serio, però non ne uso potenza, non ne ho mai usato. Ma quello lì anche se non ne usi potenza sale, c'è poco da fare. Sì, sale, sì, naturalmente non lo metto in dubbio, ma non è che sparo 150 watt, no? C'è gente che ne usa anche 300, 400, qualcuno ne ha usato anche di più. Qua mai con i picchi può arrivare a qualche watt, decina di watt, ma l'importante fissa sono 10 watt, non di più. Ah beh sì. In FM spara forte, infatti quando cosa devo sempre attenuare un pochettino, tenermi basso, se no faccio danno. Non lo so poi se faccio danno, non mi ha detto niente mai nessuno. Ecco qua, questo è l'87. C'è 9.25. Sì. Ecco. Avanti il break. Buonasera a tutta la classe. Buonasera a tutti. Gianni il profeta da questa parte. Ciao. Salutoni Gianni, ben sentito. Ciao Antonio, buonasera. Ho sentito a te e a Roberto, non so chi ci sia, forse anche Gianni. Avanti a chi tocca, dai. Cappa, cappa. Così va meglio. Roberto. Sei quasi 9 più 30 adesso. Comunque Gianni Lobroffetta, considerando che esce lo stesso vicino a te nella parte bassa, esce uno di quelli che c'è meglio, soprattutto la radio, è una delle più forti in assoluto come forza di radio dei baracchini, e non so se sia Luca, se l'ha giocato Luca, forse leggermente più forte Luca, ma Gianni no, perché è presente, c'ha una delle più potenti radio di modulazione. Chi sai di carriera che sul microfono? Non lo so di carriera, io ascolto con le radioline piccoline, quella che ho detto prima, quelle che sento forti forti di modulazione, a parte quello che c'ho vicino, sono Gianni Lobroffetta e Antonio Bombolo in questi giorni, vabbè anche Luca, proprio forti forti. Cappa, me, allora da fare CD che non vorrei andare, adesso sto usando l'87, sto usando, già va bene, eh? Io sono piccolino. Bella la radio di oggi, la c'hai tu già? Starner Silverkick. E con che cos'è? Con Garas. Ma quella radio che c'avevi l'altra volta che ti ho detto che era spettacolare, che cos'era? Ricorda. Era il GT 200 Magnum. Magnum GT 200. No, c'è il Cobra, non il Magnum. E non lo usi più quello? Sì, che lo usi. Quella probabilmente è la migliore radio che c'è, anche questa è bella, però quella là rendeva di più naturale. Sì, lo uso, dai. È un bel apparecchio quello forte. No, io parlo di modulazione, non parliamo di segnale, perché i segnali sono tutti forti. Parlo proprio la voce chiara, piena, cacchio. Una bella modulazione. Sì, va molto bene anche quello. Solo che il problema è che la notte mi metto le cuffie e il Galassi c'ha l'attacco davanti, è per quello che non uso l'altro, che la bocca mi viene male, capito? E allora uso questo qua, che lo uso il Galassi, che mi dà... Un attimo Marco, a te c'è Marco, avanti Marco. Io volevo chiedere a Gianni, ma stasera quando avete provato sul 10 con Franco, come mai la modulazione non spingeva? Perché adesso è spinta, o era un apparecchio suo, sto sbagliando io? No, era quello lì, era il microfono di Franco. Fatto sta che quando parlava Franco è come se avesse una tonalità più alta e si sentiva un po' meglio, benché un po' nasina. E quando parlavi tu era più, o parlavi più lontano o parlavi con voce più bassa già. Ah vabbè, allora non fa testo la... No, questo va, questo lo sento bene, abbastanza bene. Oh, scusate un attimo. Allora, ti spiego. Scusate, no, vabbè, io devo staccare, vado a vedermi la partita, dai, buon proseguimento a tutti. E c'è una partita di Juventus Porto alle 9, sta per iniziare. Ciao, ciao, buon proseguo a tutti. Ciao, ciao. Cappa, ciao Robe, ce la risentiamo alle prossime linee. Avanti già, Lobroffe. Ehi, sì, anche io sono entrato così. Saluto di Marco. Poi mi sembra che voi sentite Luca, boh, non so chi c'è altro, chi è rimasto in ruota ancora. Cosa volevo dire? Io quando l'altro giorno ho rimesso i VAT originali, sono 4 fissi, 4 importanti e 5 modulati. Quindi adesso il segnale sicuramente è cambiato. C'era Marco, avanti Marco. Sì, la modulazione ne ha guadagnato molto, molto molto, secondo me. Il segnale sì, sarà una 2 decibel in meno forse, ma la modulazione è splendida, per essere quel microfono lì è splendida. Gianni, dimmi. Ti voglio spiegare una cosa, che praticamente quel microfono che abbiamo usato stasera era praticamente fatto da 2 microfoni, gli ho dato la scheda dell'M300 io, l'ha piazzata in una cover di un altro microfono e la capsula non so da dove l'ho recuperata, quindi è stato costruito quel microfono proprio dallo zero. Ah vabbè, no, perché Claudio diceva che il giorno prima usciva bene, io non avevo presente le prove e così, dai, va bene. Chi può riprendere? Antonio, riprendi. Non lo so, non l'ho sentito io perché non c'ero, quindi, ma comunque se va bene va bene, dai. Ma stavo sentendo l'altro giorno che stava costruendo non so cosa. L'ho dato io, gli ho dato la scheda di una 300 e l'ha piazzata dentro la cover di un altro microfono. Ed è buono così, dai. Ha costruito un microfono praticamente, ne aveva 2 che non lo andavano, ne ha costruito uno. Va bene, dai, dovrebbe entrare Franco, ha detto che entrava oggi. E niente, stavamo provando stasera, forse io la rendevo la Sina con la mia voce e lui di meno, non lo so. Perché tante volte anche altri microfoni provati da me, provati da un altro, o rendevano più da me o rendevano più dall'altro, dipende. Sì, può capitare, può. Forse a me mi sono andati di quasi tutti bene. Sì, ma questo qua va benissimo, io mi sono sentito, va benissimo. Sì, sì, sì. Sì, sì. No, va bene. No, già andava peggio. Forse io non ne ho mai avuto uno che non andasse bene. Forse anche per la caratteristica di voce può essere. E tutto può essere, tutto. Saluto anche a Gianni Lubrofetta, l'avevo salutato ma forse non mi ha sentito, dai. Kappa. Chi è rimasto? Tonino, ci sei? Al telefono era. E prendi tu Marco, dai, ci racconti di bello. Di bello nulla, niente, che sto perdendo un po' la mano a entrare in radio. Non sento il bisogno, in poche parole. Ogni tanto lo faccio per far lavorare gli apparecchi già, per non inchiodarsi. Tutto lì. Adesso sto usando il President. Ma tu ci credi, tu l'hai mai visto un baracchino senza trimmer dentro, privo di trimmer? L'hai mai visto in vita tua? No. E i trimmer ci sono per regolare il volume, per regolare il... Come privo di trimmer? Allora, questo è privo di trimmer. Non hai né il trimmer per la deviazione FM, né il trimmer per la M, niente. Esce tratto così dalla President, te lo devi tenere così. Una cosa incredibile pure così, questo è il presidente, ma non è il McKinley, è l'altro presidente. Se va fuori frequenza ti dura. È fuori frequenza? Ho detto, se va fuori frequenza ce lo butti via perché non puoi registrare. No, le bobine ci sono, le medie frequenze ci sono già, però non hai il trimmer per la modulazione, per la deviazione, per lo smitter, nulla. Cioè la Presidente te lo tara bene in fabbrica, però dice te lo fai piacere così. Al massimo puoi mettere un amplificato, però non c'è, c'è l'attacco a 6, 7, 8, boh, non ho guardato nemmeno. Vabbè, che cazzo cose che fanno? Per rompere le scatole, perché se uno vuole aumentare la modulazione, vuole qualcosa non lo può fare, boh. Vabbè, tutte cose nuove, se non se va bene così, lascialo così, a fottidino. Perché non dovrebbe andare bene. naturalmente però devi usare il mic originale, che finché sei in città ancora va bene, però se parli con uno lontano che arrivi in Santiago 1-2, la modulazione è sempre tipo omologato, dovrebbe essere. Sì, vabbè, Marco. E che vuoi fare? Cappa. Così è. Tutti gli apparecchi nuovi si offende in un mondo un po' diverso da come era la tecnologia adesso. Li staranno così, magari non ci staranno mai, non lo so. E funzionano sempre, finché hanno la vita loro. Sì, dentro sembrano dei cellulari, Anto, sembrano dei cellulari questi baracchini. Non sono nemmeno più baracchini. Vai il profeta, vai. Eia. Sì, no, questo apparecchio, Marco, esce, forse te l'avevo già detto altre volte, no, già suona bene, c'è un bel sonoro, c'è un bel audio. Comunque, come ti ho già detto, e riconfermo e sottoscrivo, è nuovo. Il 3009 è in pole position, poi arriva questo e forse dietro c'è l'altro, cos'è, lo 9009 o 6009, buono, quando me la metti. Comunque il 3009 è sempre il top, considerando le tue condizioni, antenna, microfono, apparato, è proprio il top, dai. Sì, guarda, una delle modulazioni migliori, che io, non migliori, che io preferisco come chiarezza, limpida, proprio limpidezza della modulazione, sono Luca, che ha l'MB più 5, è sempre un apparecchio con queste schede qua. Doppio Room, quando usava il Saturn e il Sadelta forse, oppure l'MB più 5, Franco di Zona Viale Sicilia con l'usciure, cioè proprio a qualità di pulizia assoluta di modulazione e limpidezza, sembra senza timbriche, però capito, senza effetti barattolo, senza effetti nasali, senza effetto stanza, eccetera eccetera. Vai Luca, se ci sei ancora. Luca, io sono qua, mi sono dato la pasticcia. Eia, allora vabbè, fate girare che vado a bere. Aspetta, mamma mia, ma sto uscendo in radio. Millo, sì. Stai frusciando. Sì, Andrea, frusciando anche per la sapeggio. È strana, questo è quello che ha la timbrica radiofonica, come ha detto Gianni. Mi devo registrare e ascoltare. Farò la prova con calma, dai. Cappa. Dai, un profe, ma lo sai che sul microfono cosa va dentro? Una di quelle capsule dei telefoni bianchi di una volta, quelli con la tastiera, te le ricordi? Quella aveva già scritto SIP. Eia, eia, l'ho aperto, l'ho messo a posto sto microfono. conosco tutto, tanto. Gli avevo cambiato il capo mesi fa perché l'altro che c'era non andava bene, ho sostituito a capo Spinotto, quindi lo conosco fuori e dentro. Allora già lo sai, dai. Certo. Dai ragazzi, il film che c'avevo, che stavo scaricando, è addirittura d'arrivo, quindi quindi vi lascio e mi preparo la visione del filmino, roba tranquilla, no? Non vi fate idee strane. Doctor Strange del 2016. Vabbè ragazzi, dai, buona continuazione. Ciao, dottoressa Mincino. Domani magari, dai. Salutoni e a Sibiri, ok? Ciao, quelli ti da parte mia. Ciao Gianni, ci sentiamo, buonasera. Ciao Gianni. Cosa dottoressa? La dottoressa Mincino. Chi è? No, ero assente, ero sul 16 a fare una prova. Dottoressa Minci di Mucci. Dice dottore, è il dottor Sigo, sai. Lo sai, caccio un film, no? Ui. Antonio Luborno. Luborno, non si dite niente cose così. Kappa, specialmente al baracchino si dicono. Avanti, Luca. Per carità, se vuoi già troppo, vaffanculo. Quindi Marco, questa radio non ti piace? No, non ho detto che non mi piace, però quando avete fatto la prova era un po' strana e non spingeva, non era forte così, era un po' più bassa. Adesso c'è un altro baracchino, mi dici già, non ho il 3009. come sempre ho detto, 100 baracchini, 100 ricezioni diverse, è così l'orecchio anche. Allora ti spiego, questo microfono l'ho verniciato, l'ho smontato per verniciare, probabilmente li avevo abbassati i volumi, capito? Niente di che, ti mando qui le foto, va? Sto usando l'Intec. Ecco qua, andiamo. Con questo. Questo è più bello. Ehi, fammelo sentire già di modulazione. Guarda, 1, 2, 3, prova. Sembra che spinga, boh, io magari stavate provando capsule, non lo so, vabbè, comunque sembra che vada. Ma per caso il microfono del vecchio che ti è arrivato? No, no, questo qua è il Turner Super Siderkick. Super Siderick, ma non è che hai convinto Torino a dartelo, sei riuscito a strapparglielo. Si chiama Super Siderkick, non Siderick. E quello con la cosa cromata sopra, e sei riuscito a fartelo dare un altro? È buscato, va. Ehi, ehi. E poi sarebbe bello provarlo tipo sul 3009, sul Saturn, eccetera, per curiosità. E anche questo, il 3009 omologato, esce, vabbè, rende meglio com'è, però alla fine sempre omologato, 40 canali c'hai, li vai. Già l'ho visto com'è il 3009 omologato, ce l'ha una persona, ce l'ha. Ehi, più di una. Che roba, io ce l'avevo non omologato, ce l'avevo. Sì, perché nasce omologato, questi ultimi, poi un ponticello, mi spostavi un jumper e diventava 240 canali, poi watt personalizzabile, modulazione lo stesso, ma alla fine se non sei appassionato di DX e mando laterale, alla fine siamo sempre sul canale, massimo 2. Appunto. Non me lo ricordo, ma mi pare che non costa neanche tanto. E il prezzo attuale è 160 Gianni, tu che mi pare l'hai preso per ultimo. Che cosa? Quanto costa il 3009 attuale, quello moderno? Io ho preso quello non digitale, quello analogico preso. Sì, sì, il classico, che Antonio voleva sapere grosso modo il prezzo. 170 euro con le spese di spedizione. Non è neanche caro, non costa neanche tanto, è la verità. No, e con lo stesso prezzo prendevi un Alan 48 MFM, in più prende colpi il 48. Che piglia abbattimento dalle stazioni forti, qua non. Cioè per pigliare abbattimento deve essere a 100 metri la stazione, capito? Sì, sì, lo so, lo so. Ma non è neanche così tanto, come si dice? Non costa molto, perché la 48 è un bug uguale, cioè è vero, uguale, addirittura pure di più, La Pipina avete preso quel parecchio che fa anche bene, va. Che 4 euro costa? Che cosa offra? Ma la 48, buonasera. Buonasera. No! No, ho buttato un po' di più. Sto scherzando, dai. Che c'è qua? C'è cosa c'è, come si dice? Marco, Gianni, Luca dovrebbe esserci. Ok, dai, saluto a tutti, buonasera. Ciao, Fra. Ciao, Gianni, buonasera. Mi ascoltate bene, sì? Una cannonata, sì. Ma vero? Eia, 9.40, Radio 5. Ma vabbè, vabbè, vuol dire che ho fatto un buon lavoro qua. Hai puzza, deve andare bene. Merito di chi è? vabbè, ma... professore sono io, dai. Tu guarda la mano, gli taglio la testa, e così li trovati io. Riprendete un attimo. Ma se è quello il mic, io come timbrica preferisco quella di doppio room. Cosa è più amplificato però? Cosa fa? Franco. Ognuno gli piace la sua modulazione. Vabbè, io questa qua è al minimo, la posso ancora aumentare, però poi strappo. No, no, se aumenti è veramente troppo, troppo forte, non ha senso. Appunto, anda bene, come te, già va bene abbastanza. Lì la bioccomi. Ah, così. Ehi, stanco di grattarmi le palle. Ma tua quinta fa che cosa? È passato Antonio, chi era l'altro? E sempre io sono, buonasera, meglio qua questa. Vabbè, all'orecchio mio, all'altoparlante mio un po' meglio, fai un passaggio lungo. Guarda un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sì, a me piace più questa, però è questione di gusti, fra, è questione di gusti di altoparlante, di baracchino, di orecchio. Magari a Gianni piace più l'altra, o a Bombolo o a qualsiasi altro. Gianni, come la trovi? Non stavo seguendo perché stavo leggendo, ditemi. Oh, è migliore questa. È meglio questa? Questa è l'MC60. È l'unghito, è migliore. Allora non è l'impressione mia, no? Questo è l'MC60, con la 680. Ebbe, credo che non si basta, K con K. Anche il più 5 mi va bene con l'apparecchio, se regolato giusto. Claudio lo usa e sembra che vada bene, ogni tanto lo alterna, infatti non manco le differenze, mi accorgo. E vabbè, questo è al minimo adesso il Michighiro, ho messo a metà, sennò praticamente spinge molto di più. Ma Franco aveva risolto quel piccolo, diciamo, inconveniente. Sì, si chiede a lui, ma l'ha risolto. E cosa c'era? Io? No, ho detto Franco, che cosa aveva? Tipo TVI a posto, risolto? Sì, sì, tutto capo, tutto fatto. Scommetto che la colpa non era dell'emittente tua, ma dell'impianto TV. No, praticamente era la centralina. Sì, sì, guarda, di solito gli mettono o i guadagni tutti a manetta, per Sassari è eccessivo mettere i guadagni a manetta, oppure qui che ha la centralina o il cavo, tutto il resto. Allora, cos'è? Riprendo io. Allora, praticamente è questo il discorso: se tu la centralina più la abbassi più disturbi, la centralina più la aumenti e meno disturbi, perché il segnale non ce la fa entrare, capito? E a cosa gli aveva fatto l'effetto opposto anni fa? Adesso vabbè, non mi ricordo com'era, però era il caso opposto, c'era una centralina con i guadagni tutti a manetta, no? Con Monteoro davanti gli hanno messo i guadagni a manetta per tutti i condomini, e quindi si portava dentro anche roba che non doveva portare dentro, e poi non so come sia finita, però. E a secondo, dai, io comunque praticamente l'ho risolto con questo problema qua, abbiamo aumentato e controllato tutto K. Sempre quella la V come antenna, no? Sì, sì, c'è l'antenna UHF e antenna UHF. No, dicevo la Venom, sempre quella, e sì. Sì, sì, sempre questa antenna qua. Un bidone d'antenna, però, visto che va bene. Non un bidone, che c'è un bel forse. No, vabbè. Non lo so, in lontananza, com'è? Fa, tranquillo che fa. Adesso sto pilotando con 10 watt modulati, A voglia. Ma guarda che sono antenne costruite bene, non è che... Io penso che vada bene lo stesso. Certo, non è una mantova, però va bene lo stesso. È più leggera e va bene. Secondo me sono antenne buone. E questo è... Ma l'importante è che vada bene. Poi per il resto, diciamo, lo vi faccio sentire anche un pochino qua, ho visto che già anda. Io non credo, via. Ma con sai frusci e fruscendi e trudiendi. Ok, dai, rilanciamo la cosa, Gianni, vai Gianni. Io stavo rispondendo al telefono a quelli che mi hanno dato la buona notte, dai, un attimino solo e poi riprendo. Va bene, quindi questo MC60 è molto meglio, no, dell'altro? Ma questo apparecchio sì. Antonio ha detto mi pare lo stesso, molto meglio, come timbri, cammini. A parte il volume dell'amplificazione, vabbè. Siamo lì, però come tibrica sembra migliore. E come più si trattende? Un altro pianeta è questo. Ma MC60 e l'eco da dove esce? Cosa hai messo? Una camera eco intermedia? Ecco, ecco non è a questo. Cazzo, il rimbombo della stanza è mì, se sembra un effetto eco. La stanza, perché forse è il vuoto della stanza che fa questo tipo di modulazione. Sicuramente sì. Cosa vuoi ti dica? Vabbè, adesso provo a aumentare leggermente il mic gear, a vedere. Ma non l'FND più. Guarda un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova 1, 2, 3. Già andava. Andava, dai, riprendete un attimo. Certo. Così è. Oh, che strano. Un effetto che faceva. Sì, sembrava proprio un effetto eco. Adesso è la stanza grande, magari rimbomba un po', chiappa. Vedi che qua non è fa. Capo, lo sai che ho preso il 203 della Dettaggi? Che cosa che funzionava? Il 203, aspetta, qual è il 203? Ma per caso due strumenti ha? Sì, funziona veramente bene. Adesso me lo guardo su internet, via. Sì, tanto in realtà il rosmetro lo metti solo quando ci sono variazioni di antenna, se c'hai qualche problema insorto per antenne da macchina, per tararle, ma poi non è che io so con lo smitter sempre attaccato, no? Io se devo fare il test di qualche cosa, se no lo tolgo, è inutile mettere 10.000 cose in fila, capito? Non è staccato adesso, non mi mozzuta, però cavolo, ti dico che sono rimasto sorpreso, funziona bene questo, capo. Io ero un po' scettico, ero. La taratura è un po' particolare degli altri, invece se VR, questo dove ci sono i watt, lo mandi a fondo scala, poi schiacci watt, schiacci dove c'è watt, e cosa ti misura, sia le stazionarie che cosa, tutto insieme, ma funziona bene? Io vabbè, personalmente ZG non ne voglio più sapere, non voglio proprio più sapere niente. Sì, vabbè, però questo ti dirò che funziona bene, non so che modello avevi tu, però questo va bene. Meno male, ho detto, cavolo, ero un po' scettico a comprarlo, perché mi avevano parlato tutti male. Capo, ho provato questo e funziona bene. Io l'ho sempre avuto della Dettaggi e l'hanno sempre bene. L'ho provato sia con gara sia a misurare stazionari, mi dava gli stessi valori. Ah già, questo io sono soddisfatto, la verità. Poi va bene, chi ha andato male ne parla male, ma io mi sono sempre trovato bene. E anche con il cavo, tutti H155, non ho riscontrato nessuna differenza tra un cavo e l'altro, proprio uguale, stessi segnali, stesse cose. Qualcosa di differenza già c'è, già, a chi mi gioca bizzardo io. È poca roba, però se noti bene qualche piccola differenza c'è. Ma sono cose irrisorie, proprio cicci. Certo. Ma ci va bene, so. Però l'unico vantaggio che ha è che se devi caricare molto regge. Oggi 48, 300 watt li reggeva tranquillamente, la regge 600. Già. Via. Adesso questa storia di questa antenna nuova uscita, no? È presente quello che parla con noi in propagazione con la Sardegna, Francesco Lunarossa, no? Sì. È quello che sta facendo la promozione di questa Grazioli, no? Prima ancora l'aveva fatta della Game Master, l'aveva promossa lui, gli ha fatto molta propaganda buona, però gli hanno detto che lui è... cioè quando è uscita la Game Master ne aveva fatto un monumento dicendo che era superiore alla Mantova da prove fatte da lui eccetera, e adesso invece che è uscita questa Grazioli che lui la sta promuovendo tra virgolette, sta già facendo dietro fronte, dicendo che la Game Master è di larga banda, non può rendere mai quanto una Mantova, insomma l'hanno un po' accusato di essere un po' così, capito, di cambiare da un giorno all'altro, quando doveva fare grande la Game Master, e adesso invece la sta sminuendo in favore di questa Grazioli, capito? Purtroppo, vabbè, così va il mondo. Non so se lui becchi incentivi, non ne ho idea, non credo però. Sicuramente sì. Non c'è P2. Ma io ce l'ho l'antenna. Secondo dura, se devo fare la Grazioli, è una bella antenna.